cartellone di Elisabetta Fiorito. Buongiorno, buongiorno, con questa splendida voce, con la splendida voce di Maria Callas che interpreta Tosca, iniziamo questa puntata pasquale di cartellone, una splendida voce che però oggi possiamo riascoltare, cioè possiamo riascoltare un'altra interprete sempre magnifica come Svetla Vassileva che interpreta Tosca all'Opera di Roma questa sera. Buongiorno Svetla. Buongiorno, grazie delle belle parole, comunque non arrivo fin lì, lei è veramente divina. Lei è veramente divina, ma noi lo mettiamo così, perché così almeno siamo rispettose nei confronti di tutti quanti i soprani, tutti quanti i tenori, tutti... Svetla, allora, giovedì c'è stata la prima, com'è andata? Ma è stato un debutto fantastico, emozionante, bello, c'era tutto. C'era tutto. Che cosa vuol dire cantare la Tosca a Roma? Perché poi, ecco, ogni città ha un po' la sua, certo, opera. Certo, dire è come dire faccio il Papa al Vaticano. Cioè, fare Tosca a Roma veramente, cioè, non si può desiderare di più, ecco. E i romani come accolgono quest'opera? Quando a un certo punto vedono la loro città, quindi vedono poi quello che sono stati i moti rivoluzionari, insomma la prima consapevolezza di doversi stabilire e fare uno Stato e costituire uno Stato. Ma i romani, le intende i romani di... I romani di Roma, del pubblico? Sì, del pubblico, come sono? Io penso che il pubblico conosca veramente a memoria tutte le parti, tutte le frasi, è un pubblico molto critico, ma è un pubblico che veramente si sente l'amore per quest'opera, per questa musica, è la loro opera. E veramente quando poi si è accolti calorosamente, sicuramente un grande emozione, un grande soddisfazione. Allora Tosca, ricordiamo che era l'eroina che vive d'arte e praticamente vive nella Repubblica Romana, anzi dopo la prima Repubblica Romana l'azione si svolge nel 1800 e i bonapartisti hanno lasciato la città, però il suo uomo, il pittore Caravadossi, copre, diciamo, colluso con il vecchio, cioè un vecchio bonapartista, quindi è un patriota, e da qui nascono una serie di disavventure. Svetla, di tutte le eroine che lei sicuramente avrà interpretato, Tosca è quella più simile a una cantante lirica? Diciamo che per fare la cantante lirica veramente ci vuole un carattere forte, in questo sicuramente si somigliano molto. Tosca è una famosissima cantante lirica, perciò sicuramente, poi sapendo Puccini come era attentissimo a ogni singola parola, ecco, sicuramente ha studiato molto bene il carattere delle cantanti. Tra l'altro parlo non solamente musicalmente, ma si sa che lui litigava con i librettisti con delle settimane per cambiare una parola, ecco, perciò sicuramente anche teatralmente. Tosca, sì, diciamo che è molto diversa da tutte le altre parti di soprano, ecco, tutte le altre opere, perché si incontrano dei personaggi forti anche nelle altre opere, però Tosca è veramente molto complessa, è bella, è innamorata, però non è una cosa da tutti i giorni uccidere una persona, ecco. Insomma, è un personaggio un po' particolare. Il maestro invece è Fabrizio Maria Carminati. Buongiorno maestro. Buongiorno. Lei si trova poi tra le altre cose a visitare la mostra di Caravaggio. Insomma, in una Pasqua molto romana, da una parte la Tosca all'opera, da un'altra parte a vedere Caravaggio, perché noi sappiamo che durante le vacanze pasquali gli italiani preferiscono e prediligono le città d'arte come Roma. Qual è il momento più bello di Tosca? Che è più difficile per un maestro come lei da dirigere? Ma guardi, Tosca è un'opera veramente complessa, tutta, perché è un'opera costruita su una visione, direi quasi ingegneristica, come mi sono già permesso di dire molte volte. Puccini era talmente meticoloso in tutte le sue indicazioni di carattere stilistico, logico, musicale, interpretazione, e talvolta quasi sempre precisi in ogni aggettivazione che lui mette su ogni singola frase di ogni singolo personaggio. Ne cito una: nel Te Deum va Tosca, sopra c'è scritto alla seconda enunciazione di va Tosca di Scarpia, con ironia sardonica. È tutta così, è un'opera che viene descritta con una minuzia e un'esattezza infinita. È talmente difficile riuscire a volte a rendere tutte queste sue indicazioni che io credo che sarebbe già un gran lavoro riuscire a fare tutto ciò che c'è scritto. Questo è quello che io in genere cerco sempre di fare, questa è la vera difficoltà delle partiture pucciniane. Allora maestro, noi la lasciamo a altre opere d'arte, appunto quelle di Caravaggio. Ritorniamo un attimo a Svetla. Svetla, oggi come oggi, una donna, brevemente, potrebbe amare così tanto un uomo come Cavaradossi? Ma sicuramente, ma indubbiamente, l'amore persiste per sempre, c'è la passione, la gelosia, ma tutto quanto, assolutamente sì. Assolutamente sì. Allora sentiamo il momento culmine cantato da un grandissimo tenore come Pavarotti. Eh sì, quel momento in cui purtroppo i sogni in Tosca, nell'opera di Puccini, svaniscono. Allora ricordiamo, fino a domenica 11 aprile al Teatro dell'Opera di Roma, Tosca di Puccini. E adesso, vabbè, ci dedichiamo un pochino alla Pasqua, è anche giusto che sia così, è il weekend pasquale, oggi sabato santo, domani domenica, lunedì dell'angelo, poi ricordiamo anche coincide con la Pesach ebraica. Comunque noi andiamo al Crucifixus Festival a Brescia, perché fino al 10 aprile, ma è partito già dal 16 marzo, si svolge questo importantissimo festival dedicato a teatro, arti, musica e tradizioni del sacro. Carla Abbino è il direttore artistico di Crucifixus Festival di Primavera. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, io leggo nei vostri comunicati che praticamente è una riscoperta delle tradizioni religiose del territorio, feste, processioni, sacre rappresentazioni e insomma di tutto e di più per riscoprire l'aspetto spirituale della vita. Beh, sono 15 anni che noi lavoriamo in questa direzione con un fortissimo amore nei confronti di un territorio come quello della provincia di Brescia e della città. C'è una cultura legata alla devozione in queste terre che si è mantenuta in parte e che in parte andava rivitalizzata. perché è anche, se volete, legata ad antiche tradizioni contadine e quindi al passaggio dall'inverno alla primavera e al concetto di rinascita, di resurrezione. Lavorare sulla Pasqua in questi luoghi significa ricreare relazioni comunitarie e quindi lavorare su progetti che attraverso il teatro, per fatto di corpi in relazione, lavora propriamente sul ricompattamento di gruppi e di cori. La Pasqua in questo senso è la festa per eccellenza, perché celebra esattamente un rito che è quello di vita. Quindi per chi viene a Brescia durante questo weekend, a che cosa assisterà? Allora, durante il weekend pasquale non potrà assistere a nulla perché, come dire, la liturgia prende il posto dello spettacolo e del teatro. Questo per un accordo tacito e giusto nei confronti della Chiesa e delle sue liturgie. Per poter assistere a una serie di paraliturgie promosse dal territorio, quindi non a lavori di teatro vero e proprio, ma a paraliturgie. Dal lunedì dell'anno. Cosa intende dire per paraliturgie? Cioè feste religiose? La liturgia è la liturgia ufficiale della Chiesa, quindi tutte le funzioni e le celebrazioni della Chiesa. Paraliturgie sono quelle azioni devote che non si sovrappongono alle liturgie, ma che le possono completare, le possono accompagnare. Intendo ad esempio le celebrazioni delle Vie Crucis fatte dai laici, piuttosto che le Passioni Viventi e cose di questo genere, che noi abbiamo esattamente catalogato nelle tradizioni del sacro. Certo, anche perché ricordiamo che tradizionalmente, almeno qui essendo Cartellone una trasmissione anche di spettacoli, tradizionalmente in Quaresima venivano chiusi i teatri e siccome il colore della Quaresima è il viola. Per questo si dice che tradizionalmente il viola porta sfortuna a teatro, ma noi ricordiamo che dal lunedì dell'Angelo non è più Quaresima, comunque per fortuna i teatri non sono più chiusi durante la Quaresima, anche perché i nostri attori e i nostri registi già stanno in Quaresima, visto i tagli dei fondi. A questo punto è meglio, abbiamo capito che quindi chi va a Brescia può assistere a un momento sacro che però non ha a che fare propriamente con il teatro, mentre noi sappiamo che dal 7, 8, 9 aprile abbiamo uno spettacolo particolarissimo nell'ambito di questo festival, che è il Vangelo visto da un cieco. Buongiorno Monica Morini. Buongiorno. Allora, un testo che interpreta un Vangelo un po' particolare, ci vuole spiegare il suo ruolo e in che cosa si articola? Sì. Abbiamo immaginato che tre personaggi, tre figure del Vangelo, però tre figure minori. Io sono la samaritana, poi in scena avremo anche il cieco nato, il cieco miracolato, e la moglie di Zaccheo, che è un personaggio che non appare. Giampiero Pizzol, che è l'autore del testo, l'ha creato, gli ha dato voce nella persona di Laura Guzzoni. Si trovano questi tre personaggi davanti al Sinedio perché spinti dalla volontà di testimoniare a favore di Gesù. In realtà non potranno testimoniare, ma srotolano un po' il filo della loro vita, ed è davvero un Vangelo reinterpretato con gli occhi dei personaggi minori, dei personaggi del popolo. Allora, io la interrompo, lei è una delle protagoniste, la interrompo perché vogliamo far sentire appunto dei brani di questo spettacolo. La donna ha ragione, anche noi eravamo ricchi ma morti dentro. Mio marito prendeva in appalto le tasse da riscuotere, aveva due esecutori che mandava in giro dai debitori dell'erario. Te li raccomando quelli, sempre pronti a picchiare volentieri. Ai miei genitori hanno bruciato il banco di stoffa del mercato per due soldi. Maledetti tutti i pubblicani! Senza riferimento ai presenti. Oh, avete ragione, avete ragione. Monica, allora, si incontrano queste persone e parlano del nostro Vangelo, cioè del Vangelo ai tempi nostri, praticamente, di tutte le difficoltà della nostra vita. Sì, è un Vangelo che si sgrana nell'umanità di questi personaggi. È forse quel tempo, ma anche è un tempo presente, quindi c'è l'inciampo di un'umanità che sta davanti al miracolo, sta davanti anche al mistero della vita. Un po' con le parole che non trova con le parole che incontra negli occhi dell'altro quando ha urgenza di raccontare una storia e mentre la racconta forse se la spiega. E anche gli incontri con Gesù forse si chiariscono nei personaggi proprio perché parlando con l'altro, nella relazione con l'altro, chiariscono a se stessi anche che cosa gli è accaduto. E, è interessante perché in questa piccola piazza unisce gli sguardi dei personaggi, noi facciamo cadere anche lo sguardo di uno spettatore. Questa è un'anticipazione. Gli spettatori di Desidera non si ritrarranno, perché noi qualcuno ne cogliamo sempre e lo coinvolgiamo per un tempo che è limitato, non è di tutto lo spettacolo, lo coinvolgiamo ed è interessante perché c'è una verità spiazzante nello spettatore che risponde e intreccia il suo dire, il suo fare, il suo non riuscire a dire con noi, e ogni volta questa parte del spettacolo si fa nuova. Allora, noi abbiamo capito che è una sorta proprio vero e proprio miracle play medievale in cui si sta in una chiesa e si vede praticamente questo spettacolo, giusto Monica? Sì, esattamente. Oltre c'è la presenza, l'avete sentita nella registrazione, di un musicista in scena che non è solo parte musicale ma anche parte attiva, e ha una forza questa drammaturgia, io la penso anche nelle chiese, è molto forte l'impatto col pubblico che ride e nello stesso tempo si commuove. È un teatro popolare in questo senso. E com'era proprio il Miracle Play medievale? Allora ricordiamo Festival Crucifixus a Brescia, nella chiesa di San Michele Arcangelo a Gianico, a Cedegolo, spero di aver azzeccato gli accenti perché ogni piccolo paese ha un suo perché, chiesa di San Girolamo e poi chiesa di San Giovanni Battista il 7, l'8 e il 9 aprile alle 20:45, il Vangelo visto da un cieco nell'ambito di Crucifixus Festival. Io sono elettricista, lavoro all'interno di una struttura pubblica. 1.200 mesi, 13, 14, a ferie di pagato, ho detto, non mi pare vero. Ero entrato 7 mesi fa all'Alitalia e nel momento. Ma ci siamo venduti la macchina, siamo impegnati loro, tutto. Un attimo sono trovato senza lavoro, senza casa e 4 persone in macchina. E sempre di più se faceva avanti questa proposta, raga, ma andiamo a occupare. E le difficoltà della vita sono tante e Agostino tutti contro tutti le denuncia. Buongiorno a Rolando Ravello. Buongiorno a tutti, ciao. Un'idea sua e di Massimiliano Bruno. Voi praticamente mettete in scena uno spettacolo di disperazione, di nuova povertà. Sì, che è tratto da una storia vera, perché Agostino esiste veramente ed è un operaio che conosco da tanti anni. A cui è successa questa cosa, lui è entrato in una casa occupata dando una buona uscita senza sapere che quello è il Far West, quindi dopo 2 mesi è uscito per andare alla comunione della figlia, è tornato e ci ha trovato dentro 15 napoletani. Da quel punto è successo l'ira di Dio. Nella realtà Agostino è riuscito a tornare in una casa che aveva, per fortuna anche se piccola. Noi ci siamo chiesti, senza una casa, senza dei parenti dove puoi andare, allora i nostri protagonisti occupano il pianerottolo, inizia una guerra tra poveri, tra gli occupanti, e Agostino che sta lì ed è povero come chi occupa casa sua. Però un testo quindi sempre di denuncia, come è tipico anche di Massimiliano Bruno e anche da parte sua. Noi pensavamo ad Agostino che sembrava un po' Sant'Agostino visto la Pasqua, perché è una persona che combatte per i suoi diritti. Sì, ma è una cosa che in questo momento purtroppo sta facendo un sacco di gente e vedo inutilmente. Io, studiando poi lo spettacolo, studiando il mondo dell'occupazione, ho girato poi un documentario prodotto dalla Fandango su questo argomento, perché ho scoperto tutta una realtà che non conoscevo, perché il mondo dell'occupazione noi lo immaginiamo un mondo di diseredati, di barboni, di gente senza una lira e senza nessun diritto, invece no, sono persone che lavorano, che molto spesso sono monoreddito, perché 9 volte su 10 la moglie è rimasta incinta e è stata cacciata dal lavoro, e si trovano ad occupare, quindi a vivere illegalmente. Ma in realtà non sono affatto portati per una vita di questo tipo. Loro vorrebbero, se messi in regola, vivere una vita regolare, vivere una vita legale, e purtroppo non possono farlo. purtroppo le condizioni economiche di questo paese peggiorano. Allora, per questo, per denunciare le difficoltà della vita odierna, Roma Città Teatro al Piccolo Eliseo dal 6 al 18 aprile, abbiamo sentito Agostino, Tutti contro tutti. Grazie Rolando. Ciao, grazie a voi. Matilde Pellissero ha detto Tilde, via Bava 102 quarto piano, le grazie dispensavi solo a tre, a medic, un avvocato e un salamè. E quello che sentite è Gipo Farassino, come dire, un cantante, un cantautore legato anche alla tradizione popolare, la tradizione piemontese, dialettale della nostra canzone, che da martedì 6 fino all'11 aprile è in scena al Teatro Carignano di Torino con Stai Sera. Giusto Gipo, buongiorno. No, il titolo del buongiorno tanto, ma il titolo dello spettacolo non è Stai Sera, è Stasera. Stasera, e io lo sapevo che stasera, sul dialetto... Ma lei è Napoli, allora No, io non sono Napoli, io sono Roma, lei è Torino, io sono Roma. Poi a un certo punto, sa, quando nel 1871 ci avete anche conquistato, perché i Savoia vennero. Comunque Stasera vuol dire, stasera. Significa Stasera. Stasera, ma questo glielo dico, l'avevo capito anch'io. Allora, uno spettacolo di musica, di ricordi, di poesie, di testimonianze, di gioco, di balli d'umore, di amori, legata proprio al territorio, alla tradizione, al dialetto. Quindi questo è parte da un periodo storico dell'immediato dopoguerra, l'ultimo dopoguerra, venendo avanti, insomma, ecco. E quindi lei racconta in musica un po' quello che è stata la sua vita? No, la mia vita non può interessare più o meno nessuno. Beh, è stata una vita rocambolesca, perché ha fatto di tutto. Ma questo non lo metto mai in interesse. Questo è il discorso, che sono gli eventi che si sono susseguiti. Voglio dire, anche dal 1861 arrivare adesso... con l'unità d'Italia arrivare adesso sono terribili, sono tanti, sono molti. Noi poi in Piemonte abbiamo nel 1945 il Piemonte era pezzi, quindi abbiamo accolto con sollievo l'ingresso delle truppe americane e via è partito di lì questo discorso. E quindi è un discorso che abbraccia dal dopoguerra ad oggi. Vogliamo sentire un altro brano, Gipo, del suo spettacolo? Perché in lei le sei, Angiolina, le rive la toglierà a Turino. Una sera d'agosto piena di luna, dal 1951. Allora, io confesso, Gipo, di non aver proprio colto tutte le parole, però insomma mi sforzerò. Ma io a questo punto, lei, visto che è piemontese, posso fare una domanda personale? È Juventino o tifa per il Torino? Juventino cromosomico, ho capito. No, perché quello che è bello è che in tutte le regioni d'Italia c'è sempre una divisione nel pubblico calcistico, nel tifo calcistico. Allora, abbiamo sentito quindi un uso del dialetto anche molto accurato, ha fatto delle ricerche particolari? Sì, uno studio particolare, ma da sempre, perché sono convinto e i fatti odierni mi danno ragione, sta rispuntando la voglia del dialetto, sta rispuntando la voglia, perché è come una difesa, le lingue ancestrali non moriranno mai. Molto probabilmente fra 30 anni tutta l'Europa parlerà inglese, forse scomparirà l'italiano, ma non scomparirà il piemontese, il romanesco, il veneto, il calabrese, questi non scompariranno mai, perché sono le lingue che ci portiamo dentro nel DNA, insomma. Ma glielo va a dire a lei, a Manzoni, che magari scomparirà l'italiano, perché ci ha messo 20 anni per scrivere i Promessi Sposi e creare una nuova lingua. Anche di più, 30. Anche di più, 30. Appunto, glielo dice lei. Allora, io la ringrazio. Mi ripete, per cortesia, in puro piemontese, come si intitola lo spettacolo? Stasera, va bene? Ho imparato? Allora, io la ringrazio perché è uno spettacolo molto molto divertente e anche intenso al Teatro Carignano di Torino, ricordiamo dal 6 all'11 aprile. Grazie Gipo! Grazie a voi, grazie a lei cara. Arrivederci. E noi però vogliamo ricordare qualcosa che è successo proprio un anno fa, un evento disastroso purtroppo per il nostro paese, un evento che poteva essere meno disastroso se si fossero rispettate delle norme antisismiche. Sì, perché noi andiamo all'Aquila nella notte tra il 5 e il 6 aprile, ricordiamo il primo anniversario del sisma, l'Aquila nel cuore della città colpita. Uno spettacolo particolare, Replace, il buio è singolare, le luci anche plurali. Buongiorno a Pierluigi Sacco, professore di economia della cultura e curatore del progetto Replace. Buongiorno. Allora, è una manifestazione che vuole ridare forma e spazi alla città. Sì, in realtà è chiaro che in questo momento la criticità di una città come l'Aquila non è solo quella della ricostruzione fisica, ma anche e soprattutto quella della ricostruzione di un tessuto sociale e di un progetto di futuro per una città che rischia di trovarsi drammaticamente spopolata e compromessa nella sua capacità di generare valore economico e sociale. Il progetto Replace in realtà è un progetto di riattivazione simbolica della città. È stato chiamato un artista italiano di livello internazionale, Mario Airò, a realizzare un progetto specifico con la luce che sarà appunto inaugurato durante la fiaccolata che si terrà nella notte tra il 5 e il 6 per commemorare l'anniversario del terremoto e che sarà intensamente partecipata da tutti gli aquilani e che vuole essere appunto un momento di riaccensione simbolica della città, andando anche a toccare degli spazi che sono al di là del muro della zona rossa e quindi dando un segnale molto preciso del fatto che questa è una città che vuole prima di tutto ricostruirsi a partire dalla sua storia. Ricordiamo anche che il terremoto dell'Aquila ha fatto moltissime vittime, 180 morti, insomma ricordiamo questo momento particolare perché il problema sì sono gli edifici come abbiamo sentito in questi giorni con gli aquilani che si stanno mobilitando e noi di Cartellone sosteniamo la loro causa per sgombrare il centro storico dalle macerie, ma ricordiamo che purtroppo sono morte tantissime persone perché le case non erano costruite assolutamente a norma. Quindi è importante anche riuscire a ricordare questo momento perché molto spesso poi si ricorda il sisma ma non si ricordano i morti. Allora Pierluigi Sacco, lei dice il buio è singolare, le luci anche plurali. Che cosa vuol dire? Vuol dire che anche da un punto di vista linguistico, quando noi parliamo del buio, in italiano non esiste un plurale per questa parola, proprio perché in qualche modo il buio è un'entità che inghiotte tutto e purtroppo non è mai stato tragicamente così vero come nel caso dell'Aquila in cui il sisma, come sappiamo, è avvenuto nel cuore della notte. In realtà invece le luci e quindi questa volontà di riaccendere possono anche essere plurali, esiste la parola luce ma esistono anche le parole luci, la parola luci che in questo caso vuol dire tutta quella galassia straordinaria, vivacissima di attivismo di cittadinanza attiva che si sta creando intorno alla ricostruzione sociale dell'Aquila e che quindi in qualche modo vuole essere mobilitata da questo processo di riaccensione simbolica della città. Ho capito, quindi è un modo per far rivivere la città. Lei che si trova all'Aquila in questi giorni o comunque che è andato all'Aquila, qual è lo spirito degli aquilani? Beh, in questo momento, come si può capire, c'è un grande sconcerto che è comunque legato al fatto che la vicenda della ricostruzione, questo oggi è chiaro a tutti, sarà molto più lunga e complessa di quello che ci si sarebbe forse potuto aspettare. Soprattutto è un'economia che ha bisogno di ripartire, c'è un tessuto sociale che va in qualche modo ricostruito perché gli stessi comunità di vicinato sono state smembrate dalla logistica, diciamo, della nuova struttura delle New Town, quindi è una città che veramente in qualche modo deve un po' reinventarsi un futuro, ma io sono fiducioso sul fatto che gli aquilani sono persone, come dire, molto ostinate, storicamente attaccatissime alla loro città e quindi sono sicuro che anche con tutte le difficoltà, naturalmente ovviamente con l'aiuto e con le risorse che meritano, possano veramente essere in grado di ricostruire questa città. Allora ricordiamo lunedì 5 aprile e il 6 aprile nella notte del primo anniversario del sisma all'Aquila, Replace, il buio è in singolare, le luci anche in plurale. Ricordiamo quindi anche a tutti quanti gli italiani di pensare a quel momento e di lottare affinché nel nostro paese non avvengano più dei disastri simili, ma le città siano costruite secondo criteri antisismici. Grazie a Pierluigi Sacco. Grazie a voi. Spazio, ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima. E adesso andiamo al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia a Milano, per chi decide di passare, di trascorrere la Pasqua nel capoluogo lombardo. Il museo sarà aperto eccezionalmente per uno spettacolo particolare, insomma spettacolo, ora ci spiega tutto il fisico ideatore e attore dello spettacolo, perché è una sorta di teatro scientifico, no? Abbiamo visto i nuovi esperimenti del CERN di Ginevra, non c'è bisogno, basta andare a Milano, perché basta diventare una nanoparticella. Beh, ogni tanto nella vita ci siamo sentiti un po' una nanoparticella, magari quando il professore ci interrogava a scuola e non avevamo studiato, oppure quando il capo redattore ci sgrida. Insomma, ci sono dei momenti in cui è facile purtroppo rimpicciolirsi ad una nanoparticella, e questo avviene nel Museo Nazionale della Scienze della Tecnologia di Milano. Buongiorno a Massimo Abbamonte, ci scusi se stiamo scherzando su questo esperimento che lei invece farà al museo. Ci spiega qualcosa, cosa succederà a Pasqua? Sì, c'è questo nuovo spettacolo che debutta proprio domani, domenica e lunedì. È uno spettacolo che si chiama C'è un mucchio di spazio là in fondo, una frase che ha detto il grande fisico Richard Feynman, e il tema è proprio quello delle nanotecnologie. È uno spettacolo un po' diverso dai classici spettacoli teatrali, perché la gente partecipa attivamente come attore essa stessa della rappresentazione, quindi tutti diventeranno nanoparticelle e compieranno delle azioni che faranno scoprire cosa vuol dire il mondo delle nanotecnologie. Quindi una nanoparticella, ma tipo uno è un protone, uno è un elettrone, un altro è un bosone, no? Ci spiega bene che cosa vuol dire essere una nanoparticella. Essere una nanoparticella significa essere una particella, che può essere un atomo, una molecola, tutto nell'ordine di qualche nanometro. Diciamo compreso fra un nanometro e 100 nanometri, cioè stiamo parlando di un miliardesimo di metro. E quindi vedremo l'universo praticamente dal buco della serratura, in pratica. Beh, in un qualche modo sì. Allora, ricordiamo che tutto ciò avverrà nel Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano. A che ora? Dunque, domani domenica ci sono tre spettacoli, alle 12, alle 14 e alle 16. Mentre lunedì ve ne sono ancora tre, però alle 12, 14.30 e 16.30. Quindi per tutte le famiglie, perché mi sembra che sia una cosa anche dedicata a tutte le famiglie, per tutti i ragazzi che vogliono scoprire l'affascinante mondo della fisica, noi consigliamo di andare al Teatro Scientifico, al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano, giusto? Certo, certo. E ci sentiremo tutti quanti, un atomo addirittura, un elettrone, un protone, un quark, chi ne ha più ne metta, visto che tanto il mondo delle nanoparticelle è abbastanza infinito, come l'infinito. Grazie a Massimo Abbamonte. A voi. Arrivederci. Beh, diciamolo, essere genitori durante queste vacanze di Pasqua non è affatto facile, perché prima ci sono state le lezioni, scuole chiuse. Poi ci sono le vacanze di Pasqua, scuole chiuse. Ma questi bambini, quando ritornano a scuola questi benedetti bambini? Ma noi abbiamo la soluzione. Durante queste vacanze di Pasqua ci sono anche dei parchi dedicati proprio ai bambini. Mini Italia, Leolandia Park, un parco di divertimenti a San Gervasio e poi un parco di divertimenti sul lago di Garda. Buongiorno a Massimiliano Freddi, direttore del parco divertimenti di San Gervasio a Bergamo. Eccoci qua, buongiorno agli ascoltatori. Quali sono le novità principali di questo parco e a chi è rivolto? Ok, beh, io vi sto parlando intanto dal cuore del parco, quindi sentirete pur di schiamazzi e altro perché siamo nel centro del divertimento. La novità principale per quest'anno è che il parco si chiama Mini Italia. Beh, abbiamo rifatto l'Italia. La Mini Italia è completamente nuova con i suoi 160 monumenti in miniatura. Ah, come quella lì che si vedeva nella sigla famosa, no? Di Raffaella Carrà, vagava. Esatto, la Carrà in realtà era stata all'Italia in miniatura di Rimini. Noi siamo, chiamiamola, una filiale bergamasca, due gruppi di società diverse, ma lo stesso spirito del voler raccontare le bellezze dell'Italia alle famiglie. Quindi in visita ai 150 anni dell'Unità per ricordare tutti quanti i nostri monumenti. Ma che cosa vuol dire Leolandia? A chi fa riferimento? Leo ci dice qualcosa? Questo nome è Leonardo? Qualcosa? Forse Leonardo da Vinci? Ma esattamente, forse. Esattamente. Siamo il parco che si è voluto ispirare a Leonardo da Vinci, a un genio creativo italiano, che molto spesso viene ricordato in maniera seria, un po' accademica, e invece noi abbiamo detto: ma se Leonardo oggi vivesse ai giorni nostri e con le sue pazzesche invenzioni riuscisse a far divertire le persone, beh, come lo farebbe? Lo farebbe come cerchiamo di farlo noi qui a Leolandia, dove siamo ispirati proprio ai suoi disegni, alle sue invenzioni, per creare delle giostre divertentissime dove le famiglie si possono divertire. Quindi il parco è aperto ovviamente anche a Pasqua, i genitori possono andare lì e far sfogare i bambini. Perfetto, allora ricordiamo Leolandia Park, il parco di divertimenti di San Gervasio in provincia di Bergamo. Grazie Massimiliano. E adesso ci spostiamo a Lazise sul Garda, dove c'è un altro parco di divertimenti, Movieland. Sentiamo un attimo che cosa ci racconta Fabio Amicale. Che cosa succede a Movieland? Oggi abbiamo aperto il primo giorno della stagione, c'è un bellissimo sole qui sul lago di Garda, abbiamo tantissimi visitatori e il parco in ordine, già con tutte le novità funzionanti, quindi siamo molto ottimisti per questa stagione che ci aspetta. E niente, le attrazioni sono pronte, abbiamo il parco quasi tutto a regime, nel senso che la parte acquatica aprirà per metà maggio, gli Aqua Studios, mentre gli studios e il festival sono già operativi da oggi. Quindi siamo pronti per il grande weekend della Pasqua. Pronti ad accogliere i bambini scalmanatissimi, è 15 giorni che stanno a casa questi bambini, tra lezioni sì. E Pasqua. Sì, poi per i genitori disperati, disperati. No, abbiamo creato una zona quest'anno che è la novità di Movieland, proprio rivolta ai bambini e alle famiglie. È una zona tutta preistorica con 3-4 nuove attrazioni in una zona già esistente per i bambini, quindi un totale di 5-6 attrazioni, tutte tematizzate all'età della pietra. Abbiamo dei punti ristoro simpaticissimi dove vendiamo dei cosciotti di dinosauro proprio. In realtà sono tacchino, ma noi li spacciamo per dinosauri, proprio per far viaggiare i bambini e le loro famiglie nel mondo proprio della fantasia, ecco. Allora, Movieland, abbiamo sentito Lazise sul Garda, e poi chi volesse invece andare a Riccione, abbiamo Oltremare, il parco a tema marino di Riccione, e poi anche per chi si trova a trascorrere le vacanze di Pasqua in Puglia, abbiamo Miragica, che è situato a Molfetta, a Bari. E adesso invece passiamo decisamente ad un altro argomento, un argomento un pochino più intellettuale magari, l'influenza che Francisco Goya ha avuto sull'arte e la cultura del XIX e del XX secolo, che viene ripercorsa in una mostra aperta a Milano a Palazzo Reale fino al 27 giugno. La mostra è intitolata Goya e il mondo moderno e presenta oltre 180 opere che rivelano come l'opera del grande artista spagnolo sia stato poi un punto di riferimento per vari movimenti artistici, dall'impressionismo al simbolismo, dall'espressionismo al surrealismo. E ci chiediamo, Goya è quindi da considerare il primo dei pittori moderni? Adriana Fracchia ovviamente l'ha chiesto a Claudio Strinati. Il primo dei moderni nel senso che è il primo artista forse della storia dell'arte occidentale, perlomeno, che mette al centro della sua arte, diciamo, quei concetti come il brutto, il terrore, la guerra, la morte, la disperazione, cioè fatti che sono segnati con un segno negativo, voglio dire, nella coscienza civile, è che è il primo che mette al centro dell'opera d'arte questi grandi temi, quindi abbandona completamente l'edonismo, la ricerca della bellezza fine a se stessa e così via, che fino alla sua giovinezza erano stati, diciamo così, la base, il fondamento dell'arte. Tutti i grandi artisti avevano marciato in quella direzione. Ecco, quindi in questo senso è vero che è un po' un moderno tra i primi. E appunto lui ha influenzato poi molti suoi successori. Ma guardi, a dire la verità, la tesi centrale della mostra è questa, ma fino a un certo punto, cioè ha influenzato sì moltissimo, ma non nell'immediato. Questa è una cosa interessante, cioè è stato prima una specie di vox clamantis in deserto, come si diceva di San Giovanni Battista, no? Che parlava, nessuno lo stava a sentire, poi improvvisamente questo messaggio ha una notevole distanza di tempo, a dire il vero, dalla scomparsa del maestro, è stato capito e assimilato, e in effetti, guarda caso, è stato assimilato da molti artisti che noi oggi, anche se sono un po' distanti da noi, chiamiamo moderni, come gli espressionisti tedeschi, Picasso, ecco, per citare due momenti fondamentali della storia dell'arte moderna. Questa frase attribuita a Goya: in natura il colore non esiste, neppure la linea, non c'è altro che sole e ombre, datemi un pezzo di carbone e vi farò un quadro. Secondo lei descrive bene la pittura di Goya? Sì, come no, anche perché ci ricorda implicitamente un aspetto importante di Goya, cioè Goya è stato anche un grande incisore, cioè ha usato molto lo strumento dell'incisione per divulgare le sue idee, le sue immagini. Sì, è vero, cioè in sostanza Goya dice con questa frase molto forte che la sua arte è molto aggressiva verso la realtà, cioè elimina tutto quello che è superfluo e va proprio all'essenziale, al nodo essenziale, almeno dal suo punto di vista, e però poi anche dal punto di vista di chi lo ha visto dopo, va al nodo essenziale dell'impatto tra l'uomo e la realtà, dal punto di vista artistico. Ecco, nella mostra, dove ci sono varie opere di Goya e non solo, sarà visibile al pubblico la taglia di Bordeaux, che è uno dei suoi quadri più famosi. Sì, in effetti, diciamo, la scelta delle opere è stata fatta proprio per dare un'immagine essenziale di questo maestro, il suo sguardo che va a interessarsi per esempio del grande argomento delle classi subalterne, della loro condizione sociale, morale, e in questo senso l'opera che lei citava funziona molto bene, ma insomma in generale la scelta delle opere che sono state fatte è mirata a dimostrare questa tesi centrale, cioè il rapporto molto stretto tra un artista che vuole parlare del concreto, della vita reale, vista nei suoi aspetti, diciamo, dolorosi, tutto sommato, e il pubblico dell'arte, che oggi come oggi forse è più pronto a recepire questi discorsi di quello che fu il pubblico dei tempi suoi, che rimase effettivamente molto sconcertato. Il senso di riproporre una grande mostra dedicata a Goya ancora oggi? Eh sì, perché diciamo, oggi noi ci troviamo in una fase della storia dell'arte in cui le antiche idee della bellezza, dell'armonia, dell'arte intesa come rasserenamento e come messaggio di universale conforto è venuta molto meno, tant'è vero che uno dei grandi dibattiti sull'arte moderna e contemporanea è proprio questo: come mai tanti artisti di oggi non si pongono come obiettivo, almeno apparentemente, quello del raggiungimento della bellezza, come se lo posero i maestri di Goya, per esempio, i grandi pittori che Goya giovane vide attivi in Spagna, come il nostro grande Tiepolo o il nostro grande Giaquinto, i grandi maestri della bellezza suprema. Allora, dato che Goya indaga proprio su questo aspetto oscuro, se vogliamo, ma molto affascinante, della coscienza, e indubbiamente si collega con la nostra contemporaneità, perché non c'è dubbio che l'arte del nostro tempo è piena di recessi oscuri e di angosce. Io ringrazio Valerio Rocchetti in regia, Gloria Guerrera in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere a cartellone @radio24.it. Vi ricordo che potete riascoltare questa puntata sul nostro sito www.radio24.it. Una buona Pasqua a tutti da Elisabetta Fiorito.